English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Una puntata dedicata a uno scrittore molto noto anche in Italia, Ian McEwan, che viene intervistato in un audioblog particolarmente divertente che ha scovato Giulia. Giulia, dove hai trovato questo audioblog? Spesso sono molto utili. C'era un tweet del Daily Beast che richiama i suoi articoli, fa questa esca, e quindi sono andata sul sito del Daily Beast, questo sito di notizie americane curiose, ma serie però, cioè che magari non trovi altrove, ma non sono bufale, non è neanche pettegolezzi, e quindi mi ci sono attaccata. Una intervista serissima, noi abbiamo preso una risposta di Ian McEwan che parte da una domanda un po' provocatoria ma molto divertente. Il giornalista paragona Ian McEwan a Shakespeare e sentiamo cosa risponde lo scrittore. That's very high compliment indeed to say, to suggest that I write even remotely like Shakespeare. It's a very interesting speculation. If Shakespeare was walking the earth now, would he be a playwright or a novelist or a journalist or a man of the Twitter? My guess is that had Shakespeare lived another 100 years, he would have been a novelist. I think he would have found it irresistible, the form that could take you inside minds, this intimate way of dealing with relationships and at the same time pitching people within the context of societies. Mi piace questa modestia intanto, però con la quale lui accetta un po' il complimento. Ian McEwan, lei si sente un po' come Shakespeare, che accento, assomiglia un po' a Shakespeare, e lui inizia con una frase che io adoro, una frase così inglese, impeccabile. Lui dice, well, it's a very high compliment indeed, così calmo. Beh, effettivamente, indeed, è un grandissimo complimento. To say, or even suggest, suggerire, così pensare che io, I write even remotely like Shakespeare. Remote vuol dire lontanamente, tant'è che il remote control, che vuol dire telecomando, era stato chiamato così perché appunto era un controllo da lontano, che noi poi abbiamo chiamato telecomando, e quindi remotely anche solo lontanamente come Shakespeare. E poi si lascia andare a un'interpretazione molto divertente, perché cosa farebbe Shakespeare se fosse uno scrittore dei giorni nostri? Cosa scriverebbe? Qui tra l'altro c'è una interessante risposta, c'è un'interessante espressione, sappiamo quelle espressioni che diciamo sempre fanno capire se masticate bene l'inglese o semplicemente così lo usate per esprimervi, cioè questo è un modo di dire che non possiamo tradurre letteralmente, che è if he was walking the earth, che letteralmente è se camminasse ancora su questa terra, cioè se fosse vivo, però appunto è una di quelle frasi molto usate secondo me, più una persona, vedrete che più una persona è colta più ne usa. E secondo Ian McEwan would be a playwriter, cioè un autore di teatro, a novel, un romanziere, o persino forse, Marta, un journalist, oppure ancora a man who used Twitter. My guess is? Però my guess is potremmo tradurre come secondo me, perché questo è il to guess, naturalmente vuol dire cercare di indovinare, quindi quello che io penso, che ovviamente posso soltanto così immaginare tra tante possibilità. E qui c'è una frase complessa, un periodo dell'impossibilità. Had Shakespeare lived another 100 years, cioè se Shakespeare avesse vissuto altri 100 anni, he would have been a novelist, l'equivalente del nostro condizionale, sarebbe stato un romanziere. Avrebbe trovato cosa particolarmente interessante, anzi irresistibile? Questa form that could take you inside minds. Ricordiamoci che noi forse lo diamo per scontato, però il romanzo non ha così tanti anni. Cioè Shakespeare appunto viveva in un'epoca in cui il romanzo non esisteva. Bisognava esprimersi, come ha fatto lui, tramite le tragedie, le tragedie naturalmente tutte in metrica, in poesia, complicatissimo. E invece Ian McEwan dice novelist, cioè un modo per to take you inside the minds, perché i romanzi fanno questo, permettono agli scrittori di entrare nelle teste dei loro personaggi. Nelle teste, nelle relationships, nelle relazioni, addirittura nel contesto delle società. Ma ha fatto un riferimento il nostro Ian McEwan a Twitter, e quindi il discorso poi si porta sulle tecnologie. Che cosa ne pensa Ian McEwan? As for myself and all the electronic media and the social networks, I'm of an emailing generation. I mean, we are now antediluvian. It's almost as if we carry parchment rolls under our arms. I don't have a Facebook page. I don't Twitter. I know many serious people who do, actually. For example, in the science community, one physicist showed me that he has a sort of little hunch of an idea, a bit of maths, a bit of physics, and he immediately puts it out to a community of maybe 400 or 500, and he'll have speculation back within the minute. And you can see that actually that's a very exciting way to go. So I have no kind of, I have nothing against this. It's just that it's completely irrelevant to my life. Interessante questo punto di vista, perché non ci rendiamo conto che le tecnologie cambiano, tutto sta cambiando, però magari uno scrittore che ha già una certa età, pur non essendo particolarmente anziano, come si trova di fronte a questi cambiamenti? Gli interessano? Conta qualcosa nella sua vita? Beh, insomma, per Ian McEwan mica tanto. Quindi dice as of myself, che è letteralmente per quanto mi riguarda. E gli electronic media and social networks, e lui dice I am of an emailing generation. Questo è interessante perché anch'io mi sento così. Io sono del 69 e in effetti il grande cambiamento per me, se devo pensare, è stata l'email. Poi tutto quello che è venuto dopo, prima o poi ci abitueremo anche a quello, però per me sono ancora delle novità, mentre l'email è una cosa che è diventata proprio appunto parte di me, è una cosa generazionale. Però lui non ha la pagina di Facebook, noi ce l'abbiamo, non usa Twitter, noi lo usiamo, beh insomma le cose le conosce, le conosce. No, e c'è tra l'altro questo divertente paragone, dice it's as if noi della emailing generation, it's as if we carry parchment under our arms, e lui dice addirittura veniamo trattati già come dei trogloditi noi che usiamo l'email e non queste altre diavolerie. Però appunto lui conosce questi strumenti, cioè ci ragiona sopra, non è che li conosce, semplicemente non hanno peso nella sua vita in realtà. Sì, e poi c'è un piccolo particolare, se avete sentito lui dice I don't Twitter, naturalmente non si dice I don't Twitter, semmai si dice I don't tweet, perché Twitter è il sito, perciò ci dà l'idea che insomma sì, l'ha sentito, però non gli interessa. E però ammette anche che per esempio conosce persone nella science community che usano Twitter per avere un immediate response, una speculation back within the minute, cioè gente che mette su Twitter qualcosa, per esempio una formula matematica, e per avere poi la risposta dai propri followers. Vabbè, insomma, la ricetta è che può essere utile. Io non ho niente contro queste cose, di principio, però in quanto scrittore. E qui c'è il modo appunto di usare irrelevant, completely irrelevant to my life, che letteralmente è completamente irrilevante per la mia vita. In inglese invece si dice alla mia vita, to my life. Allora, torniamo a sentire questo suo racconto, perché abbiamo sentito che scrive le email, ma ad esempio ogni tanto manda anche dei messaggi SMS, molto pochi. Sentiamo cosa gli è successo. I did send a text the other day, I think maybe only the third text of my life. I had to switch off, I had to disable the predictive text aspect of this, because I was trying to write the word book, and a completely different word came up, and it was very off-putting. And I think I was hunched over this like an ancient watchmaker sending a four-word text. It took me about 10 minutes. And I won't be doing it again. Email seems fine. It already seems very intrusive enough. I don't have an iPad yet. I have a Sony Reader, though. I like those. I don't think I'll ever have a Facebook page. I think it's very important for novelists to maintain a bit of uncommunicative space, a bit of private space, where you're not constantly connected. Un filino di snobismo, lo dobbiamo dire, c'è, perché effettivamente lui dice le email vanno bene, sì, le uso, con gli SMS non ha molta confidenza. E qui scopriamo anche che in inglese non si dice SMS, che magari potremmo pensare che sia, in realtà lo è, l'acronimo di Short Message Service, ma gli inglesi hanno sempre detto, sia in Inghilterra che in America, text. Infatti mandare SMS o scrivere SMS si dice texting. Are you texting? Quindi lui dice I did send a text the other day, ho mandato un SMS, only the third text of my life. Era il terzo SMS della mia vita. Anche perché non la comodità degli SMS, che sono rapidi, per lui non tanto, perché ha dovuto fare insomma un po' di procedure che gli hanno fatto perdere un po' di tempo. Sì, ricordate il famoso correttore automatico, no? Che inizia a scrivere una parola e lui la completa, lui quello l'ha switched off, disabled, cioè l'ha proprio tolto, perché e in inglese si chiama predictive text, perché gli faceva venire fuori delle, lui stava I was trying to write the word book, quindi probabilmente aveva scritto B.O. e questo qua chissà cosa gli ha tirato fuori, boat o chi lo sa, e insomma lui era molto molto molto off, was very off-putting, cioè mi ha molto così sbalestrato, off-put naturalmente, mettere fuori, mettere in un altro punto, quindi noi diciamo insomma, mi ha un po' disorientato. Insomma, ci ho messo 10 minuti e non lo farò mai più. I won't be doing it again, che qui la forma è una forma nel futuro molto che soltanto uno scrittore secondo me poteva usare, perché chiunque altro avrebbe detto I won't do it again, non lo farò mai più, e invece lui dice I won't be doing it again, per darci l'idea che è un'azione che comunque è lunga 10 minuti, e quindi usa questo gerundio nel futuro per dire mai più nel futuro mi troverò, mi vedrete a buttar via 10 minuti del mio tempo per fare quella roba lì. Allora, se l'email può andare bene così, it seems fine, si mm-hmm. può andare, però tutto sommato anche le email forse sono un po' troppo. Sì, dice it already seems very intrusive, cioè già l'email comunque è molto intrusiva, cioè comunque è una cosa che ti disturba, o meglio ti viene a proprio a cercare, ti trova ovunque tu sia, sicuramente sei un BlackBerry, la maledizione del BlackBerry. Devo dire che se c'è un po' di snobismo, lui non ha ancora un iPad, dà una spiegazione del perché tutto sommato forse lo scrittore deve mantenere un po' di distanza. Sì, come ci aveva detto prima, io non ho una pagina di Facebook and I don't think I'll ever have a Facebook page, e credo che non l'avrò mai, perché credo che gli scrittori need to maintain a bit of uncommunicative space, private space, quindi uno spazio dove non c'è comunicazione con l'esterno, è uno spazio privato e quindi non sei constantly connected, che è veramente un po' il problema dei nostri tempi, che siamo constantly connected. Però a questo punto come faccio a dire che il nostro tempo radiofonico è finito e soprattutto a consigliare a tutti di iscriversi alla nostra pagina di Facebook? Ma noi non siamo scrittrici, quindi possiamo dirlo. L'iscrizione alla nostra pagina di Facebook e anche l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola sono gli appuntamenti che vi ricordiamo sempre alla fine di ogni puntata di English 24. Ringrazio anche Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola. Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.